Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete perché l'Italia fa fatica a recuperare i punti di PIL persi durante la crisi? Lo sapete perché l'Italia non è allo stesso punto di economie come la Germania, gli Stati Uniti e la Francia ancora arranca? Uno dei motivi principali è la mancanza di politica industriale. Il concetto di politica industriale, stupidamente, in Italia è stato demonizzato, criticato, legato allo statalismo. Sono tutte balle. La politica industriale viene fatta dai paesi più avanzati, anche dai paesi più liberisti, e viene fatta da Obama, che grazie alla sua politica industriale è riuscito a far crescere l'economia americana del 5%, e anche dalla Merkel. Tutte le politiche industriali moderne sono basate anche su un concetto di politica industriale territoriale. Lo Stato coordina, ma poi i territori in qualche modo si auto-organizzano e si danno una politica basata sulle loro specificità. Non sono politiche vecchio stampo con gli incentivi, i soldi e quelle cose clientelari che si facevano un tempo e oggi non avrebbero più senso. Sono politiche che accompagnano e facilitano lo sviluppo delle imprese lungo particolari direttrici. In Italia nulla di tutto questo. Però ci sono dei casi di specifiche province o di specifiche aree territoriali dove qualcuno ha pensato di prendere l'iniziativa che non c'è da parte del pubblico e di auto-organizzarsi. Questo potrebbe essere il caso di Biella, che è un distretto industriale importantissimo. Lì c'è una Confindustria che è molto attiva, è un gruppo di industriali che sono molto coinvolti anche nella vita della città e che hanno provato a fare un piano. L'hanno chiamato Biella in trasformazione. Uno degli autori di questo piano si chiama Ermanno Rondi, è un industriale della logistica ed è anche stato presidente dell'Unione Industriale di Biella e adesso si occupa di education ed è qui con noi per parlare di politica industriale di questo piano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E allora, Biella in trasformazione, che cos'è? Ma Biella in trasformazione è una sfida. Innanzitutto non è un progetto calato dall'alto, ma è un'analisi che parte da una sintesi di quelle che sono oggi le prospettive del territorio, le iniziative. Abbiamo cercato di integrarle in un programma che sia integrato ed omogeneo per raggiungere degli obiettivi. Quali? Ma direi che Biella è conosciuta nel mondo essenzialmente per la qualità dei suoi tessuti, per la qualità dei suoi marchi. Vado da Zegna a Piacenza, a Cerruti per citare i più importanti, Loro Piana e così via. Ma ha visto in questi ultimi 10 anni un declino, una progressiva crisi. Si parlava di distretto monoculturale, che ha fatto certamente la fortuna di questa società negli ultimi 100 anni, ma che ha mostrato recentemente la corda. E allora ci siamo chiesti come possiamo superare questo modello per arrivare a qualcosa di più vicino alla realtà di oggi, più vicino ai mercati, più vicino ai bisogni della nostra società. Siamo partiti dicendoci: benissimo, proviamo a guardare questa cosa con gli occhi della gente, e abbiamo affrontato un progetto Delphi con il professor Rullani. La sintesi di Rullani è stata la sagra del buonsenso, nel senso che non sono venute fuori cose eclatanti, ma è evidente che non ci sono bacchette magiche per risolvere questo tipo di problema, ma ci sono delle evoluzioni, appunto delle trasformazioni come quelle che stiamo affrontando. Qual è la trasformazione? Oggi non ha senso parlare di modello unico, ha senso parlare di un ecosistema poliedrico che tenga conto di tutti gli aspetti che il mondo moderno, la tecnologia, il futuro, la rivoluzione digitale devono affrontare. Questa è stata la sintesi del nostro modello, con tutta una serie di progetti già in atto nella maggior parte dei casi, che sono stati uniti, coordinati, sviluppati e presentati come nuovo modello di sviluppo. Ecco, il tempo purtroppo è tiranno e adesso dobbiamo mandare la pubblicità e gli avvisi sul traffico, però ci spiegherà in che cosa consiste questo modello fra qualche minuto. Restate con noi, mi raccomando. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con Ermanno Rondi, industriale di Biella e coordinatore di un progetto di politica industriale territoriale. Prima di riprendere la spiegazione, devo dire che a me personalmente, al contrario di colleghi come Oscar Giannino, che voi sentite qui, o al contrario di colleghi come Dario Di Vico, l'idea della politica industriale piace moltissimo, la ritengo l'unica soluzione. E dire che lo Stato deve ritirarsi e non va fatto è solo una moda insensata che non ha prodotto nulla nella storia. Ma parliamo della politica industriale a Biella possibile grazie al piano Biella in trasformazione. Prego il dottor Rondi di esporre sinteticamente i punti del piano. Ma i punti sono molto semplici. Innanzitutto portare il tessile nel centro della città e quindi tutti quelli che sono oggi gli spazi aziendali farli vivere nel centro della città, perché solo rivivendo il centro della città noi facciamo capire alla gente che esiste un futuro, che esiste la voglia di fare, che esiste la voglia di andare avanti. Poi? Accanto al tessile il food and beverage, che io ho chiamato fashion food perché il nostro è un food and beverage di altissima qualità e quindi anche lui ha bisogno di vivere in simbiosi con il tessile, creando valore e generando valore. Ecco, dico che il centro di Biella, apro una parentesi, fa un po' schifo attualmente, è un'isolazione, una tristezza. Questo è uno dei motivi per cui bisogna assolutamente farlo rivivere, perché quando un centro muore, muore un territorio. Tranne Mosca, dove io vado sempre quando vado a Biella, che viene voglia di andare a Biella solo per quello. Ma riprendiamo i punti del piano industriale su Biella, poi? Dopodiché abbiamo il tema grande salute e benessere, perché noi abbiamo anche un ambiente molto affascinante, molto interessante da far conoscere, da far rivivere. A volte si è a Milano e Milano pensa di essere lontano da Biella 2 o 3 ore di macchina, in realtà ci si va in 40 minuti. Poi? Il turismo come elemento di cambiamento, non come elemento economico. C'è anche molta arte a Biella, sembra strano ma c'è, Pistoletto, Omar Ronda, la Cracking Art, tutte cose che ci sono a Biella. Abbiamo attraverso Banca Sella anche un po' di futuro con le start-up. Ah, ecco, io ho visto questa cosa che ha fatto Banca Sella, è una cosa che conoscono in pochi. Praticamente, se uno vuole andare a fare una startup a Biella, gli danno i locali e gli danno un sacco di agevolazioni. Assolutamente sì, e c'è anche un facco di radicamento territoriale, perché uno dei grandi errori che fanno le startup nel nostro paese è farle asettiche. In realtà una startup vive nel territorio, deve essere in simbiosi con le aziende del territorio, perché solo con questa sintesi riuscirà a fare sviluppo e a ridurre quei tassi di mortalità che sono molto alti. Ecco, come ha detto lei qualche secondo fa, non è che Biella si può ridurre solo al discorso dei tessuti, della tradizione, che è anche un po' noioso. Ci sono degli aspetti di Biella che sono inattesi, sorprendenti. Per esempio, c'è più di un gruppo rock internazionale che è nato a Biella ed è fatto da biellesi, anche se cantano in inglese. Uno di questi si chiama All About Kane. Sentite un attimo, In This Black Night. Sì. Erano gli All About Kane, sembrava un gruppo americano o inglese, invece sono tutti ragazzi di Biella. Ma torniamo a parlare di cose un po' meno leggere, anche se più importanti. Siamo qui con Ermanno Rondi, che ci parlava del piano industriale di Biella. Eravamo arrivati a parlare di start-up. Ci dica meglio quali sono i vantaggi che può offrire Sella Lab a chi viene a fare una start-up a Biella. Danno spazi, danno formazioni, danno co-working, danno tutorship, c'è del confronto, c'è della possibilità di avere delle altre idee e di capire dove va il mercato, come si muove, che cosa succede. E poi, visto che c'è in ballo Banca Sella, ci sarà anche la possibilità di avere dei finanziamenti. C'è la possibilità di avere dei finanziamenti, ma per esempio una delle startup si chiama Lanieri, che ha sicuramente molte assonanze con il nostro territorio. E poi non dimentichiamo, last but not least, la formazione. A Biella c'è Città Studi. Città Studi ha al suo interno uno sviluppo di ingegneria meccanica con indirizzo tessile, perché si vuole avere al centro il ragazzo, lo studente, le sue prospettive, ma senza dimenticare quali sono i bisogni del territorio. C'è un ITS che ha visto l'unione di aziende tessili per promuoverlo e per dare prospettive di occupazione e di sviluppo. Oggi siamo al 90% dei ragazzi appena usciti che vengono assunti dalle aziende. C'è una trasformazione di economia in economia digitale, perché ricordiamoci che dobbiamo affrontare una trasformazione di tutto il paese manifatturiero in senso digitale, quindi noi vogliamo costruire i primi tasselli. Ecco, ci sarà sempre il digitale, ok, però il tessuto è tessuto, non è digitale, una cosa che si tocca, si palpa, si vede. Tuttavia, pur facendo i tessuti più belli al mondo, io personalmente sono un fan dei tessuti di Biella, il distretto dei tessuti è in crisi. Ma perché? Com'è possibile? Ma il distretto dei tessuti è in crisi come in tutte le aziende. Io l'altro giorno facevo col Politecnico di Milano un'analisi e ho visto che per esempio la meccanica negli ultimi 3 o 4 anni ha perso più di 2.000 aziende nella fascia 10-150 milioni. Certamente Biella ha affrontato l'avvento dei paesi low cost all'inizio degli anni 2000. Ha affrontato le trasformazioni di servizio all'interno degli ultimi anni, però è riuscita a resistere, i suoi tessuti ci sono, stanno crescendo, ci sono aziende importanti. Ecco, ma io mi sono fatto un'idea del motivo della crisi e vedo l'avarizia, la grettezza di alcuni marchi, di alcuni brand della moda, proprio una grettezza stupida, fine a se stesso, per cui io sono il marchio X e vendo un vestito a 1.000-1.500 euro che si basa su un tessuto di Biella, eppure quel tessuto che io pago 30 euro al metro quadro, 20 euro al metro quadro, faccio di tutto per avere quel miserabile guadagno in più, strozzando però il tessutaio, e le filiere di produzione non hanno strumenti in un'economia di mercato per resistere a questa competizione. Guardi, le dico, quando ero presidente dell'Unione di Biella fui quello che lanciò la difesa del Made in Italy, e lì usavo sempre una metafora per spiegare questa cosa, nel senso che oggi quando il consumatore acquista un vestito, acquista una forma, un colore, un prezzo, un brand, non acquista la sostanza del vestito che è il tessuto. Questo vuol dire fare cultura. Ma non è vero, perché se io compro un vestito lo so che sto comprando un vestito col tessuto loro piana, col tessuto zegna, col tessuto Cerruti, e il negoziante dice: ah, guarda che qua tessuto Cerruti. Guardi, negli ultimi anni si è fatto branding anche sul tessuto grazie ai grandi marchi, quelli che oggi vanno sul mercato anche con il prodotto finito, parlo degli zegna, parlo dei loro piana, e di conseguenza la gente ha cominciato a capire che è un po' la storia del vino. Il vino fino a 30 anni fa era un elemento di poco valore, oggi i vini sono valorizzati per la loro territorialità, per il loro sapore, per la cultura enologica. Quindi c'è la speranza di una riscossa? No, non c'è la speranza, c'è la certezza di una riscossa, assolutamente. Ma sembra un po' Gramsci, l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione. No, l'ottimismo della realtà. Oggi molti dei nostri lanifici stanno riprendendo quote di mercato. C'è una fascia alta che sta crescendo. Certamente non sono le commodities il prodotto del futuro del territorio biellese, sono i prodotti di alta qualità, di alta fascia, con alto servizio, con velocità di risposta, con creatività, con proposte innovative. Quindi siamo di nuovo a chiudere il loop. Una storia di successo che deve continuare attraverso altre storie. Ecco, voi però avete fatto una sorta di piano industriale per il territorio valorizzandone le specificità. Ma quando si parla di politica industriale territoriale, si tratta invece, come fanno gli altri paesi, di organizzare filiere di aziende che mettendosi insieme, facendo politiche comuni, possano attrarre finanziamenti, addirittura emettere bond che siano multiaziendali, oppure fare politiche di formazione o politiche di studio e di ricerca insieme. Tutto questo si stenta ancora a vederlo sia in un territorio come Biella e sia nel nostro paese. Ma allora, innanzitutto le filiere produttive a Biella esistono per antonomasia, sono assolutamente organizzate insieme perché sono sempre state delle filiere produttive molto dinamiche e molto efficaci, ed era l'origine del distretto. Poi si sono un po' perse nel momento della crisi e si stanno riaggregando assolutamente oggi. Rispetto agli strumenti finanziari, noi abbiamo tentato anche la strada del bond territoriale, però poi alla fine questo strumento non è ancora diventato lo strumento flessibile che serve alle aziende, perché ha tutta una serie di carichi assicurativi, le banche e così via, che portano i tassi a essere troppo alti rispetto a quello che oggi le imprese di Biella possono avere direttamente. Rischia di arrivare fino al 10%. Assolutamente, non ha senso questa cosa qua. Bisogna... No, perché devi guadagnare il 15% se ti costa il denaro il 10%. Ringraziamo Ermanno Rondi, che spero di avere ospite in diverse altre puntate, perché lui è sempre molto brillante, anche quando si occupa di formazione. Arrivederci. Grazie. Grazie a voi, grazie per questa opportunità. Arrivederci alla prossima puntata.